24. Storie di star. Raimondo? Raimondo, io vado, eh. Dove? In erboristeria, no? Dopo la nottata insonne che ho passato, ho deciso di seguire i consigli di Giovanna. Ma perché non vai dal medico, scusa? Uffa, dal medico non ci vado, perché ti dice che se non dormi è per colpa dello stress. Se hai problemi di stomaco è colpa dello stress. Ma quale colpa dello stress? È colpa della peperonata che ha fatto ieri sera la tata. Anzi, vado a prendermi un po' di bicarbonato. Uff, sai che ti dico? Che adesso è una gran noia. Almeno siamo stati 3 giorni in ospedale. Abbiamo visto gente, dottori, infermieri, siamo stati visitati. Ma adesso è tutto finito, io, te, te, io, tutto uguale. Una vita proprio piatta, piatta. Guarda che non ne posso più, eh. Io sono stufa e non la faccio tanto lunga perché mi è venuto in mente che è inutile farla lunga con te. Ecco. Che noia, che barba, che barba, che noia. Buonanotte! Abbiamo riconosciuto tutti Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, due icone dello spettacolo italiano, una coppia inossidabile che ha messo in scena la commedia della vita di tutti i giorni, sempre nuova, sempre irresistibile. Dai varietà della Rai degli anni d'oro alle sitcom di Mediaset, una carriera lunghissima, cominciata per strade diverse. Milanese lei, figlia del pittore umorista Giacinto Mondaini, ha iniziato come soubrette nei varietà di Macario. Romano lui, figlio di un ammiraglio, è invece un grande sportivo che deve il suo successo al cinema e agli sketch televisivi con Ugo Tognazzi. Sulla scena e nella vita, Sandra e Raimondo sono stati insieme per 50 anni, mezzo secolo di un'ironia amabile ma puntuale, per grandi e bambini, sempre al passo coi tempi. Due osservatori attenti dei costumi privati e dei piccoli tic delle coppie di casa nostra. Questa è la loro storia, raccontata da chi li ha incontrati, conosciuti, ha lavorato con loro. L'autore televisivo Enrico Vaime, l'ex vice direttore generale della RAI Giovanni Salvi, la giornalista Silvana Giacobini e l'attore e doppiatore Massimo Giuliani. Vianello Mondaini anche nella vita avevano una dialettica similare a quella del palcoscenico, cioè giocavano un po' a fare... quei personaggi, perché lo erano fondamentalmente, quindi conflittuali, molto scherzosi e con quell'aria di non prendersi troppo sul serio che riscattava qualsiasi momento di stanca. Grande abilità loro è che dicevano cose comuni a tutti, le dicevano con il piglio dell'attore e dell'attrice comica. Però erano cose normali. Se non fosse stato un autore, molte cose non l'avrebbe saputo dire. Nel senso che lui, prima di essere una persona che diceva la battuta, l'aveva talmente studiata e talmente gli veniva bene proprio perché l'aveva scritta. Raimondo Vianello nasce a Roma il 7 maggio del 1922. Ha l'aspetto di un perfetto gentleman inglese, sia nell'atteggiamento che nei modi. La sua carriera di attore inizia per caso, quando viene scelto per interpretare il ruolo di un ufficiale nella rivista satirica Cantachiaro, di Garinei e Giovannini. Un comico, quello che si suol dire, elegante. E non era soltanto elegante. Era elegante, elegantissimo, se per questo. Ma che aveva concepito il suo modo di esserlo a tavolino. Vi canterò il mio ultimo successo americano. Prego, maestro. Nel teatro di rivista è stato accanto a Wanda Osiris, Carlo D'Apporto, Macario, Gino Bramieri e Ugo Tognazzi, con il quale fa coppia fissa dal 1951. Mi dica. Durante i miei discorsi, questo mio difetto nel pronunciare la I è motivo di sarcasmo da parte dei miei avversari. Vorrei eliminarlo. Ora vediamo. La neonata televisione ne scopre subito le qualità sceniche e comiche e si assicura il suo talento. Dall'estate del 54 Raimondo Vianello diventa il mattatore misurato, pacato e costantemente ironico del varietà 1-2-3 accanto a Ugo Tognazzi. Più stretta che lei, guardi che roba. Arbacca è strettissima. Ha visto, signorina, come stretta? Che fuga indimenticabile è stata quella. Un duo comico indimenticabile, protagonista di sketch provocatori, croce delizia dei dirigenti Rai che finiranno per punire la loro irriverenza, raccontarlo lo stesso Vianello. Venne in visita in Italia il presidente francese, allora era De Gaulle, fu ricevuto da Gronchi, andarono, non mi ricordo a quale teatro, sia alla Scala o all'Opera, alla Scala di Milano, furono eseguiti gli inni nazionali, loro due avevano preso posto nel Palco Reale, chiamava così il Palco Reale. Si chiama così ancora. Sì, si chiamano così ancora, e sulla Tenti hanno seguito l'esecuzione degli inni, poi terminata la Marsigliese, terminato l'inno italiano, si sono seduti e mentre De Gaulle ha trovato la sedia, la poltrona, Gronchi non la trovò. Perché gliel'aveva tolta Merzagora. Si gliel'aveva spostata e sparì dietro il parapetto. Ecco, noi logicamente, vista questa cosa, il giorno dopo andavamo in trasmissione, abbiamo fatto un accenno alla cosa, ci siamo fatti trovare in piedi anziché seduti a un tavolo, lui è caduto per terra quando siamo dovuti sedere. Tu e mi hai detto, io ti ho detto chi ti credi di essere, io ti ho risposto tutti possono cadere, tutti possono cadere. Beh, e a questo sottile punto abbiamo chiuso l'avventura con la Rai. Con la storia di Sandro e Raimondo ripartiamo subito dopo la viabilità. Mix 24 storie di star. Bentornati a Mix 24, al racconto della storia di una grande coppia della televisione e della comicità italiana. Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Dunque, chi era Sandra, il lato rosa della coppia? Sandra Mondaini nasce a Milano il 1 settembre del 1931, figlia di Giacinto, noto pittore ed umorista del Bertoldo. Inizia a recitare in teatro su invito dell'umorista Marcello Marchesi, amico di famiglia. Nel 1955 viene chiamata da Macario, che due anni prima l'aveva vista in uno dei primi programmi della televisione italiana. Cucu, chi è? Genoveffa la Racchia. Ma mi metto da fino, sono io. Credevi che non venissi, eh? Accanto al grande comico torinese, recita in una trilogia di rivista di Amendola e Maccari, ottenendo un successo straordinario. Sandra Mondaini dimostra da subito una grande versatilità ed uno spiccato senso dell'umorismo, proponendo una nuova immagine di soubrette. Un'attrice brillante che ribalta le convenzioni del fascino alla francese e della prima donna. Ha detto così che siete più smorfiose e che non siete buone a niente. Scusi, se ho detto una cosa alle mie amiche. Prego, ma guardi, signorina, mi dispiace, ma il ballo è finito. Ah sì? Ho finito, quando sono un'altra. All'inizio degli anni 60... Sandra Mondaini viene chiamata da Garinei e Giovannini per interpretare la commedia musicale Un mandarino per Teo, accanto a Walter Chiari e a Veninchi. Ma il primo grande successo televisivo lo ottiene con la trasmissione musicale Canzonissima del 61, dove afferma e lancia il personaggio di Arabella, temibile enfant prodige, in coppia con Paolo Poli. Mi sei slacciato il vestitino. Oh, poverina. Senti, bambino, per piacere, me la bottoni, scusa, sai? Sì, no, ti reggo io. Ballo il tango e ballo il twist. Quando canto so strillare e richiesta modo. Nel 58 Sandra Mondaini incontra il giovane Raimondo Vianello che sposa nel 62 e da allora sarà suo inseparabile compagno di vita e di lavoro. Sulla loro coppia sentiamo ancora Enrico Vaime, Giovanni Salvi, Silvana Giacobini e Massimo Giuliani. Sandra ha cominciato come soubrette, quindi aveva una sua autonomia. Poi all'improvviso ha trovato questo alveo così protettivo che è la coppia e non si è mossa più. Loro si capivano molto bene. Lei non ha mai discusso, perlomeno che non l'abbia fatto a tavola, la sera a letto. Non lo so, ma non ha mai discusso quello che Raimondo gli faceva dire. Si può pensare che ciascuno di loro due possa essere stato penalizzato, se così si può dire, dal fatto di dover lavorare in coppia e non da singolo. Sandra è stata una bella donna. la capacità di prendersi in giro, di farsi passare per racchia, brutta, vecchia, di farsi sfottere dal marito, di farsi passare vicino alla ballerina bellissima col marito e gli sguardi. Nel 1974, forse posso sbagliare di un anno, ma non di molto più, abbiamo fatto insieme tre serie televisive abbastanza significative, perlomeno per me, ed era Tante scuse, di nuovo Tante scuse e Noi no. E quindi in quell'occasione io ho potuto non solo approfondire l'amicizia con Vianello, ma anche conoscere e lavorare con Sandra Mondaini, con la coppia, insomma. Nasce così la coppia più celebre della televisione italiana, che si impone per il garbato e pungente umorismo con il quale anima le parodie del proprio teatrino domestico. Così la casa saprà che dopo 5 anni di clausura mi hai portato fuori. Quando c'era la lite e andavano a dormire, lei che faceva un po' la scontrosa, si voltava, eccetera, eccetera, e lui che leggeva il giornale, loro l'avevano praticamente rubato da un atteggiamento che Raimondo ha avuto parecchie volte quando era arrabbiato con lei, anzi lui no, quando lei era arrabbiata con lui, perché il bello di quella coppia è che lui non si arrabbiava mai. Ma cosa fa adesso? A chi telefoni a quest'ora? Telefono, stai zitto. A una mia amica confidenziale che a lei ci confido tutto e con loro lo sa. Madonna, ma a quest'ora? A quest'ora io lo trovo, così lo so. Pronto, ciao, scusa signor Alessandro, scusa se ti ho svegliato. Senti una cosa, per piacere. Quando io ti ho detto che sposavo Raimondo Vianello, perché lo sposavo? La coppia Vianello-Mondaini non è che... cioè, costruiscono degli sketch che si fondano sulla coppia, quindi sono per forza in coppia. A parte che questi sketch prima venivano scritti da Scarnici e Tarabusi, poi hanno seguitato da soli, che Scarnici e Tarabusi non ci sono più, ma la loro comicità è basata proprio sulla coppia, cioè sull'equivoco tra una coppia. Lei molto volitiva, lui più remissivo apparentemente, poi lei fa delle bizze spesso. Insomma, voglio dire, tutta la comicità era fondata sulla coppia. Parliamo degli anni 70, durante i quali dissacrare era molto, diciamo, relativo rispetto a quello che è successo dopo. Però la comicità, l'ironia, diciamo la satira anche di costume, che veniva ispirata da Raimondo Vianello, era molto interessante per quell'epoca di salamelecchi e di ricerca di eleganze formali molto provinciali. Con Vianello si riusciva a essere più diretti, meno ipocriti, meno falsi, ecco. Mi scusi, hai visto mio marito? Sì, l'ho visto prima, ma non so dov'è. Sa dov'è? No, qui non ci sta. È stato un momento di grande felicità per noi, che insomma soffrivamo un po' di quella ricerca di bon ton, di forma, che è la morte dell'umorismo e della satira soprattutto, sì. Sapere, ricordare che per preparare un'ora e un quarto di spettacolo puro c'erano ore e ore di preparazione, mesi di scrittura, quindi una professionalità straordinaria. Sandrina, dov'eri? Ero a caccia di un cretino. Sandra era assolutamente presente anche lei a livello anche autorale, non quanto Raimondo chiaramente, ma sì, lei più soubrette, ma con grande intelligenza, la grande capacità di prendersi in giro. Io non so quante altre donne avrebbero accettato nella loro carriera, non arrivata a 60 anni, ma a 35, di farsi prendere in giro in quel modo e di mettersi in discussione in quel modo. La loro grande capacità di mettere a proprio agio chiunque, di non far pesare la loro grandezza, non è da tutti. È raro che un comico lasci spazio a chi gli sta vicino. Un comico è geloso della risata, del successo. Quando in prova mi veniva fuori qualcosa di divertente, per caso, Raimondo immediatamente diceva: questa cosa falla perché è divertente, far ridere. Non fare che, mi raccomando, non fare che quando registriamo non la fai. Consomme double. Sì. Non si facciamo pressionare, perché il nome magari uno pensa chissà, è un brodo doppio. Tant'è vero che mi sono dovuto procurare dei concolini arte così. Raimondo e Sandra sono due persone che tutta la vita hanno fatto comicità, tutta la vita hanno fatto sbellicare dalle risate la gente. Io credo di non avergli mai sentito dire qualcosa più che stupido. Il segnale orario vi è offerto da Assicom. Vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Mix 24. Storie di star. Raimondo, qui c'è Sandra svenuta. Che facciamo? Ah sì, portatela al trucco. Bentornati a Mix 24. Nel 74 Raimondo Vianello e Sandra Mondaini presentano Tante scuse, un varietà del sabato sera dal successo inaspettato. Enrico Vaime era tra gli autori di quel programma. Tante scuse nasce grazie o per colpa, fate voi, di Raimondo Vianello, del suo modo di fare spettacolo, del suo senso dell'umorismo, della sua ironia, della sua voglia di dissacrare. In Italia puoi parlare male di tutti, ma non di una categoria. Un argomento tabù, a parte le categorie, sono i bambini e gli anziani, che però fanno ridere se uno riesce a entrare in sintonia. No, stai qui, stai vicino alla mamma. No, gioca qui, non allontanarti che è pericoloso, eh. Su, stai buonino, stai, guarda dove vai. Ma gioca con le formine che ti ha regalato la mamma e cerca di non sporcarti. Lascia stare la palla, vieni qui vicino alla mamma, su da bravo, su. Scusi signora, non è per immischiarmi nei fatti degli altri, ma mi sembra che i bambini debbano essere lasciati liberi. Lo lasci correre, lo lasci andare, giocare con la palla. Ma è pericoloso, sa? Ma che pericoloso, è pericoloso come fa lei che lo tiene sempre attaccato vicino a sé, no? Poi cresce con le paure, con i complessi, ma guardi quanti bambini che corrono felici. Su, vai bambino, corri. No, tu sei qui con la mamma, tu non ti allontani, vieni qui. Guarda. Ma no, vai, divertiti, vai a giocare con i tuoi amichetti. Non ha amichetti. Ma per forza, sta sempre qui vicino a lei, eh. Lo lasci andare, i bambini hanno bisogno di sfogarsi. La pedagogia moderna. Lei è pedagogo? No, allora... no, ma certe cose le sanno tutti, i bambini hanno bisogno di libertà. Vai bambino, no. vai, non aver paura, corri. Guardi come corre, vai. Ne ha altri di bambini? Vianello, che ha questo umorismo acre, questo gusto anche violento della satira, e che appunto di fronte ai bambini che diventa una bestia, però fa ridere, fa molto ridere. Questo signore poteva dire le stesse cose di altri e non offendeva mai nessuno, cioè nessuno si offendeva a quello che Raimondo diceva, perché li diceva con un tale garbo, sempre con una sottolineatura dissacratoria. Raimondo e Sandra sono nella vita quello che si vede sullo schermo, cioè il cinismo sfrenato di Raimondo, capace di ridere e mettere in berlina qualunque argomento, le battute con la moglie, la pazienza di Sandra. Ma guarda che impunito! Ma no, impunito è una cara creatura! Adesso ce l'ha solo dei miei figli. Le zampogne che suonano lassù. Molte le abbiamo eliminate, c'era il Babbo Natale che si impicca l'albero di Natale, quello per esempio non l'abbiamo fatta. Perché effettivamente, insomma, forse, anche perché andava sotto Natale in onda, quindi si andava a dissacrare un... vabbè. L'essere cinico di Raimondo è proprio nel suo DNA, gli appartiene, lui, non è una cosa di facciata che lui mette in televisione, è cinico e lo è nella vita quotidiana. Un po' di rischio c'era, perché ci sono dei momenti di sensibilità eccessiva o anche normale, ma insomma che ti impediscono di affrontare un argomento piuttosto che un altro, questo bisogna tenere presente. Però non bisogna avere troppa paura, perché sennò fai la solita satira sulla suocera, il capo ufficio, satira si fa per dire, comicità sul capo ufficio, la suocera, le mode, non lo so, la minigonna, quelle cose che mi fanno venire le bolle a me. Una delle poche volte che ho sentito dire una parolaccia a Raimondo, mi ricordo, era su un campo di calcio e fu divertentissimo perché noi giocavamo una partita con la Samo. Era la voce di Massimo Giuliani, attore, doppiatore, amico della coppia, appassionato di calcio e buon giocatore. Raimondo Vianello fonda una squadra nella quale milita per anni. Il team calcistico di terza categoria porta le iniziali della moglie, la Samo. Per poter giocare io ho fondato una squadra, sono il presidente di questa squadra, credo anzi uno dei pochi, se non l'unico presidente giocatore di società di calcio. L'ho fondata perché se no non mi facevano giocare. Invece come presidente io faccio la formazione, dico Vianello, poi il resto arrangiatevi voi, ma almeno sono sicuro di giocare la domenica. La squadra si chiama Samo Football Club, perché Samo sono le iniziali di mia moglie, Sandra Mondaini. Giocavamo una partita in un campo di periferia di quelli avvelenati, nei quali ti tirano i sassi da bordo campo, nei quali non ti è consentito uscire con un risultato che non sia di sconfitta. L'arbitro cominciò a fischiare a senso unico, inventando un calcio di rigore e dandogli un gol in fuorigioco di 18 metri praticamente, però pur di chiudere la partita con questi che avevano vinto e noi avevamo perso. E fu bellissimo perché Raimondo andò veramente a brutto muso, si era veramente incavolato a parlare con l'arbitro, arrivò davanti all'arbitro, lo guardò negli occhi e gli disse stronzo. E l'arbitro stava per tirare fuori il libricino dal quale tirare fuori il cartellino rosso per l'espulsione. E lui lo blocca e disse no, non sto parlando con l'arbitro. L'arbitro bravo, quindi rimette a posto il cartellino. L'uomo stronzo. L'arbitro però no, l'arbitro bravo, rimette a posto. E c'era questo balletto di lui che cercava di tirare fuori il cartellino e lo rimetteva dentro. Perché ogni volta diceva no, non sto parlando all'arbitro. No, no, non mi puoi spiegare perché l'arbitro bravo, l'arbitro. L'uomo. Noi giocheremo con due sole punte. A centrocampo i difensori devono cercare di trovare sempre a centrocampo Vianello, dunque io conto maggiormente su te Raimondo, sì, per cercare insomma di Raimondo giocava veramente bene a pallone, io quando ci ho giocato lui oramai era grande, era un diciamo un regista di centrocampo ma veramente con grandi piedi. Raimondo Vianello è sempre stato molto vicino al mondo dello sport. Nel 1991 viene chiamato a condurre Pressing, programma di commento al campionato di calcio. Forse viene scelto proprio per la sua capacità ironica e per la sua signorilità, un modo per sdrammatizzare l'aria surriscaldata che si respira intorno allo sport più amato dagli italiani. La moviola fatta a Pressing, me lo ricordo perfettamente, era divertentissima perché erano battute su battute e mai soltanto il dramma di andare a vedere se la caviglia era stata toccata dal giocatore, se si era buttato. Con lo scherzo, con il lieve sorriso, a volte sardonico, quindi ancora più dell'ironia, però sempre apprezzabile anche quindi il successo nel campo della conduzione di un programma sportivo. Lui segue tutti gli sport, io mi ricordo che un anno c'erano, mi pare, le Olimpiadi mentre lavoravamo e lui seguiva degli sport improponibili, cioè degli sport che nessuno di noi segue, non solo li seguiva anche in orari sfalsati e pericolosi, cioè pericolosi alla sopravvivenza addirittura, di notte, la mattina presto, ma l'ho visto una volta davanti al televisore con un cronometro, che cronometrava, cioè non si fidava più neanche della voce ufficiale dello speaker. Eccoci al salto in lungo, sta per saltare Raimondo Bianchi. Nel 1972 Raimondo Vianello venne operato per un tumore al rene. Riuscì a superare questo momento difficile grazie alla sua forza di volontà, ma soprattutto grazie alla sua amata compagna che gli è stata sempre affettuosamente vicina. Me la ricordo come personaggio che alla malattia del marito stava sempre sotto il letto. Veramente, sotto il letto. Non è una cosa inventata o una cosa un po', come dire, amplificata. No, si buttava sotto il letto. Tant'è vero che un giorno Raimondo, che io andai a trovare dopo l'operazione, mi disse me la puoi togliere di mezzo? In che modo, dico io? Nel senso che se ci fosse qualcosa come ospite di qualche trasmissione, io qua respiro e lei è più felice perché anche lavora. Sandra mi raccontava che Raimondo giocava costantemente su questa cosa e diceva: ma che fata Sandra, ti rimane tutta a te, te la trovi uno più giovane, che ti importa? E rideva, e lei mi diceva: io non ci dormo la notte con lui che mi dice queste cose. Raimondo Vianello è un esempio straordinario di come la forza d'animo, l'intelligenza, il carattere e la fortuna possano combattere il male oscuro del nostro tempo, quello che un tempo si chiamava il male incurabile, che si temeva persino di pronunciare, cancro o tumore che fosse. E lui aveva saputo che stavano preparando un coccodrillo d'emergenza e si presentò ai dirigenti della RAI e disse: fatelo fare a me. E loro rimasero bocca aperta e hanno detto: come a lei? Cioè sì, mi metto io davanti, mi date una telecamera, io mi metto là davanti e faccio: signori, signori, buonasera, sono morto, altri vi diranno come, quando, ora vi parlerò di me, no, qui, né lontano. Sandra, che ha vissuto la battaglia del marito, vinta dal marito, perché pensiamo quanti decenni sono trascorsi, questo è un ottimo segno, che vuol dire si può anche contrastare e vincere un male terribile come il cancro, e lei ha sempre fatto dalla sua la testimonial nella battaglia della ricerca contro il cancro, quindi con la raccolta di fondi. Non gioco più, me ne vado. Non gioco più, davvero. La faccia di cemento, tu parli e non. Cambio e chi non cambia resta là. Non gioco più. E là! Basta! Ma dico, ma cosa credi di essere spiritoso? C'è un solista, no? Ma che solista? E voi cosa ridete? Cosa ridete? Ricordati che io sono una professionista. Io sono un artista. Io sono Sandra Mondaini. Autrice no. Sandra non ha mai preteso di ricoprire un ruolo così. Era una suggeritrice e soprattutto offriva degli spunti perché si sviluppasse un argomento piuttosto che un altro, ma non aveva questo tipo di pretese. Era un'ottima esecutrice e anche pronta a correggere e a mettersi addosso un personaggio, in questo senso molto collaborativa, ma autrice no. Dopo Arabella, negli anni 60, 20 anni dopo Sandra Mondaini, lancia il personaggio di Sbirulino, con il quale ottiene un notevole successo tra il pubblico dei più piccoli. Sentiamo Giovanni Salvi, ex vice direttore generale della RAI, l'autore televisivo Enrico Vaime e poi Massimo Giuliani, attore e amico della coppia. Ti sei trovato stamattina? Mi devi dire di no! E allora ti lavo io! Che è piuttosto vero che una coppia come la loro li abbia un po' intrappolati in un ruolo. Ci fu un tentativo di sganciamento della coppia che però non riuscì. Lei, quando volle fare Sbirulino, questo tragico personaggio dei cartoni, non dei cartoni, ma sembrava lei un cartone, capito? In cui, voglio dire, al servizio del quale non si mise almeno subito il marito. Raimondo tentò di fare da solo una canzonissima con le sorelle Kessler. La fece insieme a Johnny Dorelli. A un certo punto però andava talmente male quello spettacolo che inserimmo Sandra Mondaini. E allora, con questo modo di conversare polemico, creando sempre un contenzioso con il marito e anche con Johnny, in pratica risalì e finì abbastanza bene. No, no, no, no, no, no, no. Noi no, poi è un discorso conclusivo, nel senso che lì abbiamo forse un attimo esagerato rispetto ai canoni concessi, abbiamo fatto cioè una trasmissione metà in bianco e nero e metà a colori, che era una cosa anche difficile da far capire, perché era solo fastidiosa da un punto di vista produttivo. Vianello richiamava alla sua maniera paradossale a un rigore estetico e quindi al bianco e nero, che è essenziale, che punta sui contenuti e non sulla forma, mentre Sandra Mondaini, che era invece diciamo la soubrette e quindi la frivola, voleva tutto a colori e tutto un po' frufru. Registrazione, due minuti a posto, svegli. Datemi il tempo di cambiarmi, almeno già lo devo fare. Scusa, si passa. Già lo devo fare, già faccio un favore a farlo. E porca miseria, ma volete levarmi di me? Nel 1992 Raimondo Vianello e Sandra Mondaini sono tra i primissimi artisti di grande popolarità a lasciare la RAI per approdare sul neonato network televisivo privato della Fininvest. Lo show è Attenti a noi due, del 1983. Nel 1987 è la volta di Sandra e Raimondo Show. L'anno dopo prende il via la sitcom Casa Vianello. Io credo che uno degli errori più grandi fatti dalla RAI sia stato quello di farli andare via. E poi c'è stato un gran botto, hai capito? Un gran botto! Sì, avanti, dai, avanti! Ma sto andando avanti! E loro alla fine di quel periodo, non so bene, so che con profondo dolore da parte di tutte e due, si ruppe il loro rapporto con la RAI e loro trovarono poi accoglienza ben felici da parte di Mediaset. Raimondo! Raimondo, volevo dirti che tua zia è gravissima all'ospedale di Bologna con la commozione cerebrale e non ha fatto ancora il testamento, hai capito? Peggio per te, avanti! La gente ti riconosce il successo a un tipo di interpretazione e te la chiede fino all'infinito, obbligandoti poi a replicarla fino alla nausea. Questo naturalmente succede quando si ha successo, è chiaro. Nel 1998 Raimondo Vianello viene chiamato a condurre il Festival di Sanremo. Senza Sandra viene affiancato da altre due donne, Eva Erzigova e Veronica Pivetti. Bella ve ne siete accorti tutti, anch'io, anzi non è bella, è bellissima. E poi è dolce, con un carattere allegro, solare, scusi, prego. Non c'è nemmeno bisogno che dica il nome. La sua presentazione a Sanremo è un esempio di come viva, come esecutore viva anche da solo, anche se poi i suoi duetti con la Erzigova, mi pare che fosse, era uno vedeva nella Erzigova un po' la Mondaini oppure la Pivetti, cioè le persone che stavano vicino a lui le trattava esattamente come era abituato a trattare Sandra. Senti, io le voglio chiedere una cosa. Sì. Da molto tempo, almeno due giorni. Sì. Posso chiedergliela? Dica. Oh, è molto comunque è gentile. Sandra. Zitta, non parliamo di... Qui è tardi, dobbiamo andare avanti, il programma ha i suoi tempi. Chi è Sandra? Sandra, tu non la conosci perché sei straniera, beata te. Allora... No, scusi, sì, mi risponde, mi ha detto che mi risponda. Sì. Che cosa ne pensa Sandra di lei al festival? Cos'è? Molto bene. Molto bene? E dirò che mi ha anche aiutato molto. Ah. Sì. In che modo? Come? E mi ha dato dei consigli sulla scelta delle partner. Ah. Ha detto no alla Schiffer, ha detto no alla Campbell, ha detto no alla Bruni. E a me ha detto sì. Sì, no, di te non gliel'ho detto. Detto sì. Di te non gliel'ho Lui detto. Si è mosso in un ambito che conosceva bene. E le due donne hanno reagito abbastanza bene, hanno avuto successo anche loro, il che significa innanzitutto che quella è una chiave precisa che non muore. E significa anche che Vianello riesce a mettere a proprio agio tutti. Sanremo è una ribalta, trappola per chi ci sale, sia per chi conduce, sia per chi canta. Poi è successo enorme, ma si paga fortemente. E l'eleganza di Raimondo Vianello ha conquistato. Anzi, quando noi ci vediamo tutti i giorni, tu e io, per le prove, le riunioni, la lettura, eccetera, io ho detto che qui non si fanno mai prove, mai letture, niente, in modo che lei pensa che noi due non ci vediamo, capito? No. Scusi. E lei ci ha creduto. Questo umorismo nero, questo cinismo sfrenato di Raimondo non appartiene a Sandra. Sandra spesso e volentieri l'ha anche sofferto. Ma è vero che erano personaggi generosi. Lei perché si commuoveva? Aveva questa specie di voglia di aiutare. Lui amava insegnare. Hanno voluto anche avere dei figli in modo difficile secondo la legge italiana, perché hanno dovuto adottare la coppia di filippini che lavorava per loro per poter poi diventare genitori nonni dei loro figli. Uno nato proprio in casa e si è chiamato Raimond. Uomini attrezzati nella battuta, nella capacità di improvvisare quando ce ne sia bisogno e di far ridere. Una televisione pulita dove non mancavano battute al limite, ma che non offendevano mai nessuno. Poi il segreto è quello: grande garbo, misura, grande eleganza, grande classe. La coscienza della vita vera li ha aiutati a sconfiggere la maschera. La coppia Vianello-Mondaini piace e quindi la gente vuole rivederla fino alla nausea forse, ma la nausea non c'è e io penso che non ci sarà mai. Come spettatrice Casa Vianello mi può mancare. No, quello che è importante è una cosa, e cioè che il pubblico sappia rendere omaggio ai vecchi del varietà, della rivista.